Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Ogni avvenimento della storia e delle nostre vite è segnato dal caso, e nel prendere decisioni importanti, spesso la nostra mente ci induce in errore, utilizzando immaginazione e intuito per colmare le lacune dei dati a nostra disposizione. Ma anche la dote di saper scegliere può essere affinata con l'esperienza. È quanto afferma lo scrittore e fisico statunitense Leonard Mlodinow nel suo libro La passeggiata dell'ubriaco. Ascoltiamo la lettura di un commento scritto da Simona Morini per l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Si avvicina la fine dell'anno. È il momento di bilanci del passato e di previsioni del futuro. Per chi crede che i nostri destini individuali non dipendano da noi stessi, ma siano determinati dagli astri o da altri arcani che ci sovrastano, è tempo di consultare gli oroscopi, di prestare orecchio a antiche o nuove profezie, cercando di decifrare i segni premonitori di eventi che non dipendono da noi. Anche a me capita di leggere l'oroscopo. Come il passeggere nelle operette morali di Leopardi, sono felicissima quando un almanacco mi rassicura che con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice. Non ci credo, però mi mette di buon umore e questo è quanto mi basta per giustificare l'acquisto di un oroscopo, ma non certo per ispirare le mie azioni future, come farebbe chi ci crede veramente. Nelle scienze non si fanno profezie, bensì previsioni. Che un razzo inviato nello spazio seguirà una certa traiettoria, che un dato esperimento al CERN porterà a individuare il bosone di Higgs, o che modificando in un certo modo il DNA si potrà evitare una malattia. Ognuna di queste previsioni è basata sulla nostra esperienza, sulle evidenze che possono confermare e smentire le ipotesi che via via facciamo sulla realtà. Il successo o l'insuccesso degli esperimenti con cui interroghiamo la natura non è qualcosa che subiamo passivamente, ma che modifica la nostra conoscenza del mondo e quindi anche le nostre azioni future. Certo, sotto Natale, normalmente siamo più interessati al futuro dell'economia o della società o della nostra esistenza che ai bosoni di Higgs, anche se non sono mancati profeti di sventura secondo i quali l'esperimento ci avrebbe risucchiati in un buco nero. E si sa che i comportamenti umani sono ancora più complessi di quelli degli astri e quindi più difficili da prevedere. Non stupisce quindi il successo delle opere che trattano di incertezza, rischio e caso, tra cui il recente libro di Leonard Mlodinow, un affascinante corso accelerato sulla casualità, come lo ha definito il New York Times, un saggio molto piacevole su quanto la casualità regoli la nostra vita, secondo il commento in copertina di Stephen Hawking. Il libro muove dalla constatazione che, benché ogni evento della storia e delle nostre vite sia segnato dal caso, la maggioranza delle persone non lo comprende né ci riflette sopra. La questione è particolarmente seria se si tiene conto del fatto che la nostra psicologia ci aiuta ben poco, poiché il più delle volte il nostro istinto ci porta a reagire in modo irrazionale all'incertezza. E neanche aiuta il linguaggio comune, verrebbe da dire, osservando come Mlodinow confonda spesso caso e probabilità, senza mai definire o chiarire cosa intenda, e assai disinvoltamente parli di fortuna, di dea bendata, di puro caso, di eventi che determinerebbero il nostro fato. Usando cioè termini banditi dalla matematica e dalla scienza, perché carichi proprio di quei pregiudizi, errori e fraintendimenti che il suo libro vorrebbe denunciare e dissipare. Mlodinow è un fervente ammiratore di Daniel Kahneman e Amos Tversky e attribuisce gran parte della nostra scarsa familiarità con il caso alle illusioni cognitive, bias, che ci portano a grossolani errori di valutazione, soprattutto nella stima delle probabilità degli eventi. Forse fin troppo fervente, dato che considera precursore Sig di Kahneman e Tversky persino Platone. Per aver constatato che se uno non gli sta con tanto d'occhi, i ragionamenti che traggono la loro conclusione dalla verosimiglianza lo tirano in inganno. Le lezioni che egli trae, però, sono ben diverse da quelle dei due illustri psicologi. Dalla sua ricostruzione, infatti, sembra che il principale effetto dei bias cognitivi sia di ritrovare regolarità impedendoci di vedere che le nostre vite, come le fiamme delle candele, sono sospinte in direzioni sempre nuove dalla varietà di eventi casuali che, assieme alle nostre reazioni a essi, determinano il nostro fato. Romantico, non c'è che dire. Di qui il titolo del libro, La passeggiata dell'ubriaco, definita come una nozione matematica che descrive il movimento casuale, per esempio il tragitto seguito dalle molecole che galleggiano nello spazio, scontrandosi continuamente con altre molecole sorelle, è considerata una metafora delle nostre vite. Il percorso che dal college ci porta al posto di lavoro, dalla solitudine alla creazione di una famiglia, dalla prima buca alla 18ª quando giochiamo a golf. Ora, anche tralasciando negligenze e sciattezza terminologica, ma bisogna pur dire che le molecole in questione, matematicamente descritte da Einstein nella sua analisi del moto browniano, non galleggiano nello spazio, ma in un fluido o in un gas, che le medesime molecole non hanno sorelle, e infine che ci sono esempi di casualità più pregnanti e drammatici del percorso dal lavoro a casa o delle buche da golf, nell'excursus teorico e storico di Mlodinow non c'è traccia dell'origine della passeggiata dell'ubriaco, che risale a uno dei protagonisti della statistica ottocentesca, Carl Pearson. Il problema non è tanto, come sostiene Mlodinow, che gran parte dell'ordine che percepiamo in natura nasconde un disordine sottostante invisibile e quindi può essere compreso solo attraverso le regole della casualità, quanto la natura è il campo di applicazione di queste regole. L'analisi del moto browniano è in linea con i lavori di Pearson e di Galton sulle medie statistiche e sulle deviazioni standard che hanno sorretto la nozione di equilibrio economico e l'idea rassicurante della mano invisibile che mette ordine nei mercati, cara all'economia classica. Ma fin dai tempi in cui Louis Bachelier aveva anticipato il moto browniano nella sua analisi dei mercati finanziari, il suo maestro Henri Poincaré aveva osservato che mentre in natura le cosiddette curve a campana o gaussiane, che rivelano regolarità anche nei fenomeni apparentemente più casuali, sono il risultato dell'azione di cause indipendenti, gli esseri umani, quando stanno insieme, non decidono più per caso e indipendentemente gli uni dagli altri, ma si influenzano a vicenda, producendo talvolta effetti imprevedibili. Inoltre, come aveva già sottolineato Pareto, medie gaussiane descrivono fenomeni il cui andamento non ha scarti significativi. I toraci dei soldati scozzesi misurati nell'Ottocento per determinare la taglia dell'uomo medio non possono variare più di tanto, così come un ubriacone non si può discostare più di tanto pur barcollando dalla sua traiettoria. Molto spesso, però, il mondo sembra ignorare le medie, che sono un costrutto umano. Nella realtà abbiamo l'attentato alle Torri Gemelle, le quotazioni folli di un Monet, tsunami e terremoti, crolli di colossi dell'economia e della finanza, bestseller da milioni di copie e calciatori strapagati. Fenomeni estremi che possono rendere inefficaci le medie come strumenti di previsione. Così, mentre il caso descritto dalle leggi di Gauss e della statistica ottocentesca appariva saggio e benevolo, senza variazioni significative e rotture clamorose, il caso descritto dai modelli paretiani è più insidioso e meno addomesticabile, selvaggio, per usare la terminologia di Benoît Mandelbrot. Fortunatamente, anche questo caso ribelle ai suoi modelli e le sue leggi, ben descritti per esempio da Ignazio Licata in una breve presentazione della Econofisica. Ma Mlodinow se ne guarda bene dal parlarne, preferisce raccontarci che Cardano è stato fortunato perché è scampato alla peste, che Pascal ha inventato il calcolo delle probabilità per caso, perché uno dei suoi compagni di Baldorie, povero Pascal, ma quando mai si è abbandonato a Baldorie, gli ha presentato il cavaliere di Mer, maestro di seduzione e giocatore d'azzardo. Pare anche che il suo celebre argomento della scommessa sia all'origine della teoria dei giochi, disinvoltamente confusa con la teoria del valore previsto e della massimizzazione dell'utilità attesa. Non mancano pettegolezzi piccanti sulla famiglia Bernoulli, che peraltro poco aggiungono alla nostra comprensione delle leggi scientifiche del caso, e innumerevoli esempi tratti dalla vita di tutti i giorni che a me sembra confondano le idee anziché chiarirle. In compenso, c'è solo una frammentaria e incompleta ricostruzione degli affascinanti tentativi di addomesticare il caso, grazie ai quali possiamo ricorrere alla matematica anziché agli oroscopi per cercare di barcamenarci e di prendere decisioni in un modo incerto e rischioso, né si fa alcun cenno alle interessantissime controversie che prima e dopo il crollo della borsa americana nell'ottobre del 1929 già affrontavano temi analoghi a quelli che ci tormentano oggi, discutendo se le previsioni e i grafici degli analisti finanziari fossero più attendibili del lancio di una monetina e interrogandosi sulla natura e sull'efficacia delle teorie e dei modelli matematici di cui ci si serve per delineare possibili scenari del futuro. Ma evidentemente il nostro Mladinov preferisce recitare oggi la parte del venditore di almanacchi. Avete ascoltato la lettura di una recensione di Simona Morini al libro di Leonard Mladinov La passeggiata dell'ubriaco, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi.